Evanescenti fumi sacri, sarin, incenso metropolitano, linea breve sul palmo della mano, allucinati, fedeli soldati, minuti contati. Svastica sul sole, anima comprata dal Giappone, Zen Geva, Yamazuka Ai, le ultime urla dei giorni tuoi, cerimonia mortale, kabuki virtuale, carne e acciaio amplesso irreale, sempre più in fondo stanno scavando, sempre più veloci stanno viaggiando. Disastro vicino.